Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, non è un bel momento per il Milan, che fino a tre giorni fa lottava su tre fronti e a questo punto, nel giro di sole 72 ore, insomma, di fronti ne ha uno soltanto su cui esibirsi seriamente, che è il più prestigioso della Champions League, ma ha dato l'addio alla Coppa Italia e ha compromesso pesantemente il campionato. Ne parleremo più tardi, perché se parliamo di momenti, io non credo che una società, prima ancora che una squadra e una tifoseria come quella della Juventus, abbia mai vissuto un momento di questo genere, certamente dei risultati, ma io credo soprattutto di saper vivere, di saper gestire una situazione in attesa, difficile, e tutto quello che si vuole in più, ma senza farsene travolgere, senza dar l'impressione per così tanto tempo, per così tante settimane, di non sapere nemmeno che pesci pigliare. Provo a chiederne conferma a una firma storica come quella di Roberto Beccantini della Stampa. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ho esagerato? Un'analisi eccessiva, pare tuo? No, è perché siamo a un periodo enorme. Mi sembra sempre che sia la notte di Halloween, traghetto o scherzetto, perché io ormai non se ne esce più, veramente, hai detto bene. D'altra parte non può più esistere l'alibi di Calciopoli, perché sono passati ormai 4 anni, c'era stato un mercato molto forte sul piano dell'esborso, 50 milioni di euro, mercato al quale, confesso e alzo il braccio, avevo abboccato anch'io, mettendo la Juventus in griglia subito dopo l'Inter davanti al Milan e alle altre. Però è chiaro che siamo arrivati a una situazione che, tanto per usare un termine che coinvolge anche l'altra squadra cittadina, taglia la testa al toro. Cioè, peggio sì, di così sì. Non si può andare. È un meraviglio, sì. Di John Elkann in giù, veramente proprio gestita nella peggiore dei modi. Capisco la ola di Moggi, anche se come sparare su una croce rossa che si mette in posa, superata in a destra o a sinistra scegli tu l'Inter di Moratti, quella dei quattro allenatori, certo. A stagione. Sì. O perlomeno ampiamente eguagliata. Perché tu hai detto gestita, invece credo che non sia gestita, credo che sia subita questa crisi, no? Soltanto, nel senso che è passato tutto questo tempo e siamo, non so, prendo i giornali stamane e siamo in una vigilia immediata di un Inter-Juventus di Coppa Italia, che comunque è il passaporto per una semifinale di Coppa, che in questo momento sarebbe grasso che cola. Ma in ogni caso, ancora stamane, la Stampa, cioè il tuo giornale, Benitez se riesce ad arrivare subito oppure un traghettatore, con Zaccheroni favorito su Gentile. Repubblica, Zaccheroni, Gazzetta dello Sport, Gentile. Ma che vuol dire una roba del genere? Ma neanche al Peretola, e speriamo non si offendano al Peretola. Al netto del senso di lotteria che diamo noi giornali, è tututto perché questa società, appunto, ha perso la testa, ha perso la bussola, ecco, sperando che non perda la faccia, perché non si può non avere già pronto il sostituto di Ferrara, anche se Gigi, traghettatore per traghettatore, se è vero che il prossimo allenatore sarà Rafa Benitez, io avrei confermato Ciro Ferrara fino, certo, al termine della stagione, anche perché, scusami l'assonanza e l'insistenza, con la Roma la Juventus ha disputato una delle partite meno peggiori, sicuro, di questo avventurato periodo. Sicuro. E questo introduce l'argomento successivo. Per carità, Ferrara ha le sue colpe, le avrà come tutti, eccetera, ma come si può trattare in questa maniera? Io non dico un allenatore, una persona prima che un allenatore, non vorrei esagerare, non vorrei fare demagogia. Lascerei perdere la parola eroe usata ieri da Mourinho, anche se per una volta mi è sembrato un discorso molto serio il suo, sempre nella logica dell'eccesso. Concordo. Sei d'accordo? Ma come si fa a tenere... Questo non è più graticola, cioè questo è molto peggio, ma la Juventus che difendeva... Io mi ricordo in certi momenti difficili qual era il quadrato intorno a Vippale, Caparola... A Maifredi! Cioè, ma come si fa? Sì, infatti, invece al posto di Ferrara avrebbero dovuto esserci il cane Blanca, hai capito? Invece c'è Ferrara, è chiaro, Gigi era un allenatore alle prime armi, si sapeva, era molto acerbo, si sapeva, sarebbe stato un azzardo, si sapeva, si doveva sapere, a maggior ragione bisogna mettergli a fianco una persona competente. Nella Juventus la competenza, dopo che Bettega era stato esautorato e Tardelli si era licenziato, tutto non c'era più, siamo a secco, hai capito? Quindi non a caso, dopo la sconfitta interna col Catania, dopo Natale è stato riesumato subito Bettega, una mano di vernice su delle una muraglia di cartone. Sì, una mano di vernice, per ora, poi vediamo quello che succederà. Sì, certo, ma al momento la sensazione... Con tutto che Gigi, la Juventus è stata sopravvalutata e soprattutto anche dal sottoscritto, come mercato, come ambizioni... Non bisogna, secondo me, almeno parlo per me senza voler assolutamente usare il termine di Mourinho eroe eccetera, però insomma ecco, ho sbagliato anch'io, ecco. Sì, però un conto questo riguarda, come dire, il disastro o comunque il fallimento, la negatività tecnica, tattica, di risultati. Qui stiamo parlando però di altro. Ecco, Roberto. Diciamo che ho l'arroganza di dire che avrei gestito meglio questa situazione. Ma non solo tu, credo. Vabbè, senti, proviamo ad andare oltre introducendo un altro capitolo, un altro personaggio. Quanta secca, così, prima del breve intervallo che abbiamo per il traffico, quanta parte di responsabilità ha in questa vicenda il signor Marcello Lippi? Ne ha tanta, perché era stato coinvolto nel cosiddetto progetto, in quel famoso pranzo di cui si seppe tutto, persino il menù, con Jean-Claude Blanc, il pranzo che delegittimò Ranieri e fece saltare la pentola dello spogliatoio, e che portò al primo traghettatore, Ciro Ferrara. Secondo me, Gigi, l'errore non è tanto in quel pranzo, non è tanto nella scelta di Lippi dopo i mondiali, anche se mancava ancora un anno e avrebbero dovuto saperlo. È proprio il senso di dilettantismo che dà quella scelta fatta in quel modo. C'è da parte di Lippi un comportamento per cui io feci un piccolo pezzetto invitando il presidente del CONI, Gianni Petrucci, a non prendersela con Dino Meneghin, perché aveva scelto in un momento difficile anche del basket un CT part-time, Pianigiani, allenatore del Montepaschi Siena, perché la Federcalcio con Abete lo faceva da tempo, un CT part-time, e quindi fra Juventus e Nazionale, insomma, in una maniera un po'... ammesso che fosse più nobile in occhiali scuri, ma insomma noi abbiamo due CT part-time in questo momento in Italia, Pianigiani nel basket e Lippi nel calcio. Certo, e questa mi sembra abbastanza esattissima e greve. Pare che anche Abete, caro Roberto Beccantini, pare che anche il presidente federale Abete, dopo averlo rivoluto ad ogni costo, dopo avergli lasciato usare il Club Italia un po' come un piede a terra, no? Con questi andi rivieni, sia pure giustificato il primo da mille ragioni, sappiamo quale in particolare, pare che anche Abete adesso abbia deciso che comunque questa situazione va gestita con un po' più di polso. Sì, mi ha scritto Fulvio Bianchi oggi su Repubblica. Mm. Qual è il problema, Gigi? Il santo dopo. Marcello, grandissimo allenatore, è un santo dopo. Mm. Per giunta in Italia. Ai santi dopo noi permettiamo di tutto. E lui di tutto si è permesso esagerando, secondo me, perché è vero che è una banalità la storia di Milanello e Vinovo, peraltro poi... ci ha pensato il destino a metterle a posto sia Vinovo che Milanello sul piano dei risultati, però perché non andare a Appiano Gentile? Anche se, ti apro una parentesi, fosse mai andato con Balotelli avremmo fatto dei titoli, per cui Mourinho prima di dare dell'eroe a Ferrara avrebbe dato dell'istigatore a Lippi, perché viene qui a calientarmi Balotelli, che io magari non faccio giocare sempre da titolare. Questa può essere una battuta venuta male, però è chiaro che istituzionalmente Lippi avrebbe dovuto fare tripletta. Certo, questo sì, però vedi, Roberto, io credo, poi per carità non credo che questo siano le cose che da CT più o meno vanno e vengono, cioè può essere una mossa infelice, sì. Naturalmente i fan di Cassano dicono che Cassano è ridotto al Festival di Sanremo perché non l'ha mai convocato e quindi oppure si i fan di Lippi aveva ragione lì. Certo, quindi questo secondo me fa parte del ruolo del CT. Però che un CT in carica, non solo, ma che è tornato in carica in una certa maniera, eccetera, passi la sua primavera di vigilia mondiale, cioè quella scorsa, suggerendo nell'ordine Ferrara, Cannavaro, Grosso, e adesso arrivi a Candreva, e non so se c'è la sua impronta anche in qualche altro suggerimento, questo mi sembra greve. È tutta un'esagerazione, è tutto un eccesso che non esiste, fa sorridere se pensi anche alla leggerezza, viceversa, del pronostico estivo, Juventus, che aveva suscitato l'ira funesta di Mourinho, capito? Veramente, guarda, è una grande pochade questa, in cui non si capisce chi siano gli impresari, che i traghettatori, e soprattutto l'unica cosa di cui si capisce è lo stato del traghetto della Juventus, hai capito? Terribile. In questa pochade e in questo in questo disastro del traghetto, però un'altra cosa mi colpisce ed è l'ultima, anzi è la penultima, perché poi ce n'è una invece di segno molto suggestivo alla fine. Quello che mi colpisce molto è questo: c'è sempre stata la fila per la panchina della Juventus, anzi non c'era la fila perché per la maggior parte di chi aspirava era un sogno da un lato inconfessabile, dall'altro irrealizzabile. Oggi siamo al punto che la panchina della Juventus, non so da quante persone sia già stata, se non rifiutata, perlomeno cortesemente declinata, e questo è un altro segnale, secondo me, gravemente inquietante. Perché l'hanno venduta male? Perché gli si stava, attenzione, la rifiutano per 4 mesi. Sì, certo. Lasciami dire, perché è chiaro, se io vedo Sharon Stone, me la dai solo per 4 mesi, poi però me la togli, preferisco, anche se tutta struccata, se tutta in vestaglia, capito, con la cellulite, eccetera, eccetera, preferisco non sognare. Ecco, e questo è il discorso. Sì, perché sì, è vero. Viceversa, se tu hai la forza e la fantasia di scegliere subito l'allenatore, di fare un'asta, faccio per dire, penso che avresti molti candidati, anche se non più i candidati dell'estate scorsa, quando i gufi, fra virgolette, erano tanti e molto qualificati, certo, da Delio Rossi a Walter Mazzarri. Mazzarri, per esempio, è un allenatore che Lippi, non più part-time, si porterebbe volentieri se potesse strapparlo a questo Napoli. Certo. Alla fine, tu hai citato all'inizio un momento molto difficile di Torino come città calcistica, certo, no? Perché è vero. In questo momento particolare, anche la Juventus in parte è costretta, un po' come sono i vecchi tifosi del Torino, a vivere di nostalgia e ad affidarsi, nel caso di stasera, a questa splendida suggestione di un nipote d'arte che forse non debutterà, ma che comunque figura tra i convocati. Credo che il nome di un Boniperti stasera a San Siro insomma, sia tale che perlomeno per la vecchia guardia del tifo bianconero già sia una piccola consolazione. Sì, è un tocco di grande emozione, di romanticismo, di nostalgia, come hai detto bene, da Boniperti a Boniperti, neanche a farla apposta, l'ultima partita di Boniperti nonno fu contro l'Inter il 10 giugno del 1961, il famoso 9-1, perché l'Inter allora fu di parola, schierò veramente la primavera. Non penso che sia un caso che Boniperti non abbia segnato in quel 9-1, se non ricordo male, 6 gol di Omar Sivori, chissà, forse perché appunto aveva di fronte i ragazzi, mi piace pensarlo, certo, debuttò Sandro Mazzola. Quindi sì, è bella Filippo, che se va in panchina è una bella cosa, è un tocco che unisce due epoche, ma in un momento, nel momento in cui neanche fa la posta, mai sono state così lontane. Trovo anche splendido che a Filippo, che ha 18 anni, il nonno, che dunque è 28, quindi ormai va verso gli 82, gli abbia detto tira subito se vuoi, certo, tira subito. Quello che dovrebbe fare la dirigenza con l'allenatore, che non tira mai, capito? Un abbraccio, Roberto. Grazie Gigi, buon pomeriggio. Grazie a te davvero. E adesso comincio a smaltire un po' alla volta gli sms che sono arrivati sull'argomento. Per esempio, Francesco, la Juventus ha sicuramente tanti problemi, ma i più gravi sono negati dalla dirigenza e sono nell'ordine: 1. Gli infortuni, 2. Gli infortuni, 3. Gli infortuni. Anche questa è una componente vera, non ne ho parlato con Roberto Becantini, perché nessuno di noi due fa il medico, ma certo i numeri, che già erano assai inquietanti lo scorso anno, adesso sono diventati inspiegabili. La Juve è squadra mediocre, domanda Riccardo da Cremona, o è soltanto mal gestita? Lippi quest'estate non aveva detto Juventus meglio dell'Inter? Sì, ed è un pronostico che tra l'altro l'ha ricordato Becantini prima, era stato a suo tempo ampiamente contestato anche dall'altro fronte, e i pronostici si fanno sapendo prima che si può azzeccarli o li si può sbagliare. Anche il City ieri sera sembrava essere favorito in questa sfida all'Old Trafford, e invece sto rivedendo i gol del Manchester United che hanno capovolto la partita, anche se poi la partita stessa ha avuto un finale non certamente degno di Old Trafford e degno del calcio inglese di questi anni. Più tardi ne parliamo, adesso vorrei sentire Maurizio, che è già in linea da Genova. Buongiorno. Buongiorno, signor Garanzia. Granzini, dottor Granzini, sono Maurizio di Genova. E la, ho chiamato perché ieri lei lamentava che nessuno parlasse di Antonio Cassano. E le dico questo. Sì. Antonio Cassano è un giocatore eccezionale. Mm. È diventato un uomo importante. Però probabilmente per Antonio Cassano l'unico posto dove potesse andare a giocare come lo fu Maradona a Napoli era Genova. Mm-hmm. Perché questa è una città dove non ci sono aspri contenuti di lotte o intestino o cose del genere. Il problema di Antonio Cassano, senza voler fare la retorica, è che probabilmente quando ha saputo che non poteva più andare in nazionale, perché lo ha capito anche un sordo che non sarebbe andato in Sudafrica, probabilmente l'uomo ne ha risentito e il giocatore ne ha pagato le conseguenze. Le dico che, come lei senz'altro l'ha notato, il suo rendimento in casa e fuori era già prima un rendimento non a livello dell'Antonio Cassano che tutti conoscono. E questo non recita bene per Cassano. Il fatto che l'allenatore abbia avuto il coraggio di estrometterlo per motivi tecnici, che è la realtà che leggiamo, perché poi nessuno sa delle segrete cose, è un fatto importante. C'è chi dice che è già partito il suo procuratore per Manchester, versione City. Mm-hmm. Se ne dicono tante cose. Il problema di Cassano è che se l'unica città dove poteva giocare sereno non lo rispetta, come hanno fatto alcuni personaggi allo stadio che lo hanno contestato durante la partita col Bari, la sua reazione da uomo mi sembra l'unico che ci possa essere. La ringrazio. Grazie a lei, Maurizio. Messa così è vista dalla parte di Cassano, poi se ne possono vedere altre. La domanda che mi ponevo ieri era soltanto quella che il tempo poi ogni tanto, non dico sia galantuomo, ma il tempo insomma rimette a posto le cose. Se noi pensiamo che 3-4 mesi fa c'era una sola alluvione di interventi a senso unico, perché sembrava che la nazionale italiana senza Cassano non potesse giocare nemmeno più le amichevoli, beh, oggi mi sembra che la Sampdoria possa giocare anche le gare ufficiali senza Cassano, e stiamo parlando della differenza che non può non esserci tra la Sampdoria e la nazionale. Sentiamo Carmine dalla provincia di Lecco, buongiorno. Pronto, buongiorno Gigi. Dica. Io la chiamavo per la tessera del tifoso, legata ai biglietti per la Coppa Italia di stasera, l'Inter-Juve. Sì. Sa la questione? Ecco, anche avendo la tessera della Juve, la tessera del tifoso, che io ero favorevole alla tessera del tifoso, per me non era un problema di schedatura, ero favorevolissimo, non posso acquistare i biglietti per la partita di stasera. Devo avere la tessera del tifoso dell'Inter. Perché se è vietata... Se è vietata la trasferta ai tifosi della Juventus, penso che sia un provvedimento inevitabile. No, però io tifoso juventino o milanista, non è vietato comunque fare la tessera del tifoso dell'Inter, no? Non è vietato, la posso fare tranquillamente, a quanto mi sembra, a quanto pare. No, io non questo sinceramente non sono molto al corrente, non riesco a orientarmi in questa che continuo a ritenere una discreta buffonata della tessera del tifoso, o comunque se non buffonata un palliativo, non certamente la soluzione ai problemi che sappiamo. Se poi ci sono anche di queste storture, ancora peggio, insomma, ma non in ogni caso una grande novità. Nella seconda parte del programma poi torneremo anche sullo spunto da cui eravamo partiti, e cioè sul fatto che nel giro di soli 3 giorni la stagione del Milan sia naturalmente complicata. Lo ha ammesso stamani Adriano Galliani in Lega. Certo, quando si perde si è sempre delusi, ha detto Galliani. Arrivavamo da un momento buonissimo, ha fatto bene per molto tempo, ora abbiamo avuto 3 giorni difficili e il modo ancora mi offende, citazione dantesca finale per ricordare di passata le polemiche, comunque il malumore che il Milan si è portato dietro da certi trattamenti anche da tribuna in questo derby. I rapporti col Milan sono sempre ottimi, ha invece detto l'amministratore legato all'Inter Paolillo. Se incontro Galliani lo saluto e gli stringo la mano, riferita la frase a Galliani, Galliani ha risposto gelidamente: un non ho nulla da dire. A proposito di Manchester, tutto il mondo è paese, scrive Francesco da Crotone. Il Manchester rischia, leggo da un'agenzia per riassumere la vicenda, il giorno dopo una sanzione disciplinare perché Bellamy, attaccante del City, è stato colpito sul campo esterno, sempre di Manchester, dello United, da un accendino quando stava per battere un calcio d'angolo nel secondo tempo. E almeno 3 bottiglie di birra lo hanno sfiorato una volta che già era a terra. La vigilia, la polizia di Manchester aveva chiesto ai 2 club di stemperare la tensione per evitare comportamenti che potessero aumentare ancora di più la tensione che deriva dalla rivalità. A fine serata, dopo un impiego di 400 agenti in più rispetto al solito, il bilancio è stato di 11 arresti dopo i 29 della partita d'andata. Il nostro servizio di sicurezza, ha detto un portavoce dello United, crede di aver individuato i responsabili del gesto, sono già stati fermati e saranno esclusi a vita dall'Old Trafford. Perché la differenza da ricordare sempre poi è quella, è che può anche capitare ancora che in Inghilterra qualcuno vada oltre le righe, ma poi lì non ci sono i DASPO pro tempore o le tessere del tifoso, cioè si esce dallo stadio e non ci si torna più. La famosa certezza della pena o del diritto, chiamatela come volete. È quasi il momento di sentire una serie di frasi di Ferrara che secondo me ben ricostruiscono il perché di quel dialogo iniziale con Roberto Beccantini. Diamo spazio magari ad un paio di ascoltatori inizialmente e poi andiamo da Ferrara. Comincerei dai 2 ascoltatori che chiamano dal sud, da Brindisi e da Taranto. Massimo da Brindisi, buongiorno. Buongiorno dottore, io chiamo a proposito di Antonio Cassano. So che lei non credo che possa essere, da quello che dice, che ascolto nella sua trasmissione, non credo sarà d'accordo con me. Io credo che un allenatore che non sappia utilizzare un talento come Antonio Cassano, perché secondo me, ripeto, il mio parere di appassionato di calcio, è un talento unico, uno fra i primi 5 giocatori del mondo. Un allenatore che non sappia utilizzare un talento come Cassano vuol dire che non è un bravo allenatore, secondo me. Quindi sì, che è un problema. Il fatto che la Sampdoria non utilizzi Cassano, e che quindi a maggior ragione non debba essere utilizzato in nazionale, secondo me è perché gli allenatori sia della Sampdoria sia della nazionale non riescono a utilizzare un talento, ripeto, come Antonio Cassano, che del Real Madrid, e quindi la responsabilità è loro, secondo me. Non c'è dubbio, Massimo, dal suo punto di vista la capisco. Ci aggiungerei gli allenatori del Real Madrid, gli allenatori della Roma, tutti quelli che tutti quelli che durante la sua carriera non hanno capito fino in fondo che Cassano era uno dei primi 5 giocatori del mondo. Non sono pochi, eh? Diego da Taranto, buongiorno. Grazie, buon pomeriggio. Dica. Le domando, ma il signor Mourinho è un provocatore o è un ignorante che non conosce il regolamento arbitrale? Oppure tutte e due le cose, c'è un provocatore ignorante? Cioè, io mi chiedo come si fa a non distinguere il comportamento irriverente, ritengo, di Snyder da quello di Borriello. Trovo che queste continue polemiche di Mourinho potrebbero essere strumentalizzate in maniera pericolosa da gente, insomma, che la pensa, sa, un pochettino, in maniera un pochettino violenta. Infine un consiglio per lui, per Dida e per Zoff: sorridete un po' di più, che per voi la vita non è poi tanto brutta. Beh, lui Dida e Zoff, cioè, metterei... farei delle scansioni, no? tra un peggior personaggio e l'altro. Poi un invito a sorridere è sempre un invito da accettare, ma questo vale per tutti. Mourinho sa anche sorridere, sa anche essere sarcastico in maniera divertente, come lo è stato ieri. Io l'ho condiviso in quella tirata ironica nei confronti di Borriello e dell'arbitro Rocchi. Non lo condivido certamente quando si esibisce da saltimbanco violento, o arrogante, cosa che gli riesce piuttosto bene e che quest'anno ha messo in repertorio con tutt'altra frequenza rispetto a quello che gli capitava nelle scorse stagioni. Dicevo, torniamo da Ferrara, cioè ripartiamo da dove avevamo cominciato e sentiamo questa serie di sfoghi, di dichiarazioni, insomma, accorate, che hanno abbastanza il senso dello sfogo. Cominciamo da quando parla del momento suo e dal momento della Juventus. sono qui in questo ruolo e quindi devo accettare quelle che sono le critiche, le polemiche, ma di sicuro non mi devo vergognare di nulla e metterci la faccia in qualsiasi momento, nei momenti positivi, ma ancora di più nei momenti meno belli, diciamo. Io fino a quando, chiaramente, insomma, non puoi restare fuori dal mondo, no? Fuori da quello che è la realtà, quindi devo dire che in quest'ultimo periodo non è che stia leggendo tantissimo, ma basta aprire la televisione e rendersi conto di ciò che sta accadendo. Io però non ho ricevuto ancora nessuna comunicazione da parte della mia società e vado a San Siro con lo stesso spirito e con la stessa professionalità che ho sempre messo da calciatore, da dirigente di questa società e da allenatore. Poi quando mi sarà comunicato qualche cosa di diverso, senza nessun tipo di problema, ne prenderò atto, ma fino a quel momento io mi comporto come sono abituato a fare da più di 20 anni a questa parte, con serietà, professionalità e con rispetto nei confronti di un ambiente, ma soprattutto di una società che a me ha dato tanto, a cui ho dato tanto, ma dalla quale ho ricevuto tantissimo, non per ultimo la possibilità di allenare la Juventus. Quindi questo è lo spirito mio. Anche se leggo, ascolto, ma fino a quando nessuno mi comunicherà nulla, io devo comportarmi in questa maniera. Io trovo molto, molto dignitoso, anche per i toni usati, non solo per la proprietà di linguaggio. Non è facile, credo, tenere i nervi così saldi ed essere così, apparentemente perlomeno, sereni in un momento così difficile. In nessun momento professionale della vita, non soltanto nel calcio. Paolo, Milano, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Sono un tifoso juventino da 35 anni ormai, quindi purtroppo so di cosa parlo. È vero che i vertici della Juve sono una simpatica banda di dilettanti allo sbaraglio, no? Il dottor Blanc, Secco, il povero Ferrara, eccetera. Ma il nostro problema è più su, cioè è chi regge la società, è la proprietà. Sono simpatici dilettanti allo sbaraglio. Prima avevamo Giovanni Agnelli, poi avevamo Umberto Agnelli, adesso c'è un simpatico ragazzo di buona famiglia, di grandi speranze, che si chiama Elkan Yaki, credo lo chiamino, e che sicuramente ha fatto degli ottimi studi, ma evidentemente non ha saputo scegliere le persone adatte per gestire la Juve. Non è un caso che la Fiat l'ha andata a Marchionne e non la gestisca lui. E finché noi non torneremo ad avere una proprietà che ci mette la testa, ci mette l'impegno, ci mette la competenza nello scegliere gli uomini, non faremo molta strada. Beh, Paolo, messa così è un po' dura indubbiamente, però non è lontanissima dalla realtà. Lei lo dice in chiave di colpa, io credo che lo si possa anche dire in chiave di inesperienza, cioè in fondo il dilettantismo, possibilmente non allo sbaraglio, cioè fino a che era dilettantismo poteva avere anche il pregio della freschezza, dell'immediatezza, dell'aria nuova, no? E pulita rispetto a chi abitava prima quelle stanze. Poi è ovvio che dopo un po' di tempo e dopo una serie di errori, ma gli errori li commettono tutti, è la gestione dell'errore che delle difficoltà che mi sembra veramente lacunosa in questo momento. Ma di cosa stiamo parlando? Scrive Dante da Busto Arsizio, un fuoriclasse deve mettersi al servizio della squadra. Come fanno Ronaldo, come fa Rooney con il Manchester, come Cassano non mi pare, se non in rarissime occasioni, abbia mai fatto. Ecco, io la penso esattamente come Dante da Busto Arsizio e come Lippi nella fattispecie, anche se poi molte altre cose le vedo diversamente. Ferrara nel prossimo intervento spiega nel dettaglio, con la stessa serenità e con la stessa passione, direi, di prima, il perché no alle dimissioni. L'idea di abbandonare o comunque di trovare altre soluzioni non mi è mai passata per la testa, per rispetto nei confronti della società e soprattutto per rispetto a quella che è una mia coscienza. Tutte le scelte che ho fatto le ho fatte sempre con coscienza e quindi la mattina quando mi alzo mi guardo allo specchio e vado avanti. Chiaramente i risultati non mi danno ragione, ma la mattina, ripeto, quando mi guardo allo specchio e chiedo, no? Mi chiedo che cosa è successo, nelle difficoltà, ripeto, io ho sempre cercato di fare delle scelte con coscienza. Ecco spiegato il motivo per il quale non ho dato io le dimissioni o non ho preso una strada diversa anche in questi giorni. Se io mi fossi reso conto di avere la squadra contro, la società contro, un ambiente totalmente ostile, forse ci avrei anche pensato. Io non ho notato tutto ciò e quindi è nel mio dovere cercare di invertire la rotta, cercare di migliorare la situazione. Damiano scrive che queste parole di Ferrara sono quasi patetiche, perché prescindono da quello che tutti sanno. Io credo invece istintivamente di essere più dalla parte di Ferrara, perché vale sempre un principio. Non è che Ferrara un giorno ha detto adesso faccio io l'allenatore della Juventus. C'è stato qualcuno che ha detto adesso fai tu l'allenatore della Juventus, e non escludo che gli abbia detto comincia a far tu l'allenatore della Juventus in attesa che torni a farlo Lippi. Ecco, io credo che se adesso Ferrara in coscienza è convinto di non avere responsabilità particolari se non quelle degli errori in questa crisi, errori che ha commesso lui, ha commesso la società, hanno commesso i medici in maniera esponenziale, i medici o i preparatori o lo staff, e hanno commesso i giocatori, io credo che questa posizione sia discretamente legittima. Maurizio da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Nulla, volevo dire innanzitutto un complimento. Devo dire un attimo una cosa, la società sì è vero che è molto improvvisata, perché sono tutti personaggi rubati ad altre cose e messi nel calcio. Vediamo anche i giocatori che abbiamo acquistato, dovrebbero essere dei fenomeni ma sono dei brocchi. E poi anche il discorso che a gennaio hanno acquistato dei giocatori che tutto hanno meno che dei fuori classe che potessero raddrizzare le idee. Paulsen sappiamo che non lo volevano nemmeno gratis, Ferrara poverino deve giocare con quello che ha e con l'immobile che si è fatto anche male. Sì, che il resto della situazione sì. Non è in grado di fare dei cambi, non legge la partita, e poi noi che siamo fuori e leggiamo solo i giornali, cosa possiamo sapere quello che c'è all'interno realmente di quella società? Beh, questo Maurizio vale per qualunque squadra, qualunque società e qualunque epoca, non mi risulta, al momento perlomeno le tifoserie non hanno accessi all'interno delle società e delle squadre, per fortuna, quindi questa non mi sembra una stragrande novità. C'è ancora una terza parte di questo sfogo di Ferrara, che non è uno sfogo, adesso in questa terza parte diventa propositivo, diventa diverso, perché è la vigilia vera e propria di questo tentativo che stasera la Juventus farà di provare a qualificarsi per la semifinale di Coppa Italia in casa dell'Inter. Questa storia sta diventando un po' una barzelletta, quella degli infortunati della Juventus. Io non credo, se andiamo a vedere i numeri, magari ne abbiamo qualcheduno in più, ma se andiamo a vedere i numeri non siamo gli unici ad avere avuto degli infortunati. Sono gare che insomma si preparano da sole e che non hai bisogno di dire grandissime parole ai ragazzi. È un obiettivo chiaramente importante. Certo è che siamo partiti le prime due partite, Napoli e Juventus e Inter, abbiamo un bel calendario, però è così ed è giusto andare a San Siro e cercare di giocarcela con quelle che sono le nostre qualità, con quelle che è la nostra forza attuale e per insomma andare a fare comunque una buona partita, cercando di vincerla. Beh Ciro, è giusto andare a San Siro, è doveroso andare a San Siro, nel senso che c'è sta partita, è il calendario, cioè, non mi sembra il caso lo 0-3 a tavolino, ma evidentemente è una battuta questa per dire che sì, tocca, probabilmente in questo momento ne avrebbero fatto a meno, ma l'altra volta col Napoli invece sembrava, insomma la vigilia si presentava più o meno alla stessa maniera, invece sembrava l'inizio di una svolta addirittura. Chissà. Ripassiamo alla storia con Nicola Filippone il 28 gennaio. Sembra ieri. 28 gennaio 1973, campionato di Serie A di pallacanestro. Il Simmental Milano sconfigge la Gamma Varese per 117-44. I 73 punti di distacco rappresentano lo scarto più ampio nella storia del massimo torneo cestistico italiano. Un record destinato a durare quasi 37 anni, fino al 10 gennaio 2010, quando la lottomatica Roma travolgerà i ragazzi schierati da Napoli per 138-37. Sì, credo con la differenza che allora allora non era la buffonata di adesso che è stata compiuta quest'anno, lo dico da incompetente, con la missione di Napoli alla Serie A. Se poi uno vuole metterci le mani nelle buffonate attuali della Lega Basket e dintorni, non ha che da ascoltare Palla Spicchi ogni venerdì. Tocca a chi? Tocca a Gianni da Siracusa, buongiorno. Buonasera signor Granzini. Sera a lei. Dunque, io volevo parlare un po' del Palermo, visto che se ne parla pochissimo nella sua trasmissione, un po' forse per colpa nostra. Dunque, il Palermo, ieri leggevo su Repubblica che ha, dopo l'Udinese, la squadra più giovane del campionato. Poi persegue una politica dei giovani abbastanza... Il Palermo Primavera ha vinto l'anno scorso il campionato, quest'anno è ben piazzato, ci sono tanti giovani in giro per i campionati minori. E fra altre cose, il pubblico del Palermo è uno dei più corretti d'Italia, non ci sono mai state squalifiche, eccetera, eccetera. Di tutto questo, credo che bisogna dare un po' di merito a Zamparini, di cui lei dà un giudizio a volte, un po' troppo severo, perché lo considera forse, un parvenu del calcio, non so perché, ci sono forse altri motivi. Voglio dire, Zamparini a volte va sopra le righe, ma penso che non sia un mondo di gentiluomini quello del calcio, per cui insomma diciamo che siamo nella quindi media. Quindi lo può abitare anche Zamparini, dice lei, insomma. Beh, suppongo di sì. Mm-hmm. E, d'altra parte, gente come lui, come Preziosi, sono quelli che mandano un po' avanti la baracca, tutto sommato. È per questo che la baracca... Che si può discutere sulla baracca dal mio punto di vista. Lei ha citato due nomi che appunto mi fanno pensare che sarebbe la baracca, sarebbe ora di cominciare a discutere seriamente la baracca. Detto questo, nulla da dire sul Palermo, sul momento del Palermo, sulla gestione del Palermo, sulla linea verde che la società sta attuando e che sta dando frutti. Quando quest'anno è arrivato l'allenatore giusto per il Palermo, e non quello strappato lo scorso anno per un capriccio di cattivo gusto ai cugini del Catania, io mi sembra di vedere che il Palermo è una squadra che da qui in avanti può seriamente e tranquillamente lottare per entrare anche in Champions League d'altro anno, non soltanto in UEFA, come era accaduto una volta con Guidolin. Tant'è vero che ho sotto il naso alcune mail arrivate in giornata, per esempio questa di Giulio Torelli, simpatizzante milanista, che dice a proposito del Milan e del fatto che il Milan non vorrei si stesse sfaldando un po' come il derby dell'andata, perché se manca Nesta, al primo colpo di tosse di Nesta, scrive, si comincia a scricchiolare, e poi aggiunge: credo che anziché fare voli pindarici pensando a scudetti e coppe quest'anno, sarebbe meglio fare una dieta di mantenimento del secondo o terzo posto, perché Roma, Napoli e Palermo mi sembra abbiano oggi un altro passo e un'altra età media. Le ho citato questa mail perché mi pare che insomma, che più o meno tocchi, insomma, che rifletta da un'altra angolazione quello che lei stava giustamente dicendo. Rinaldo da Roma, buongiorno. Salve Granzini, complimenti per il suo senso della misura. Io le volevo chiedere un giudizio tecnico su un calciatore che a Roma divide da 4 anni i tifosi, cioè Mirko Vucinic, perché chi lo ama mette in risalto l'eccellente proprietà tecnica e la sua capacità di saltare l'uomo e di cambiare il volto delle partite, e chi non lo ama invece pone l'accento sui suoi errori sotto porta, che sono spesso marchiani, sulla sua scarsa grinta e combattività. Quindi voi lo sapete da un fine intenditore come lei. Sì. Grazie per il fine. È a metà, purtroppo è a metà. Vucinic è tutte e due le cose che lei ha citato, e come sempre in questo genere di giocatori il problema qual è? Che non sai mai quale dei due ti trovi, non di fronte, ma ti trovi insieme la domenica. Quello è il problema, perché se parliamo di qualità, di scelta di tempo, di souplesse elegante, che è quella che ti suggerisce i movimenti più felici, se parliamo di senso della porta, distinto e di insomma, in una parola, di talento, Vucinic è un signor giocatore, no, non dico un campione, ma insomma, uno che non ci va molto lontano. Se parliamo di fasi di stanca, di periodi di intervallo, ecco, essenzialmente di questo, insomma, di scadimenti improvvisi, magari di condizione, allora Vucinic è un giocatore che ha molte lacune, siamo lì, è una via di mezzo, non sai mai non sai mai che domenica sarà per lui, in altre parole. Quando è la domenica di segno più, beh, Vucinic c'è uno che è meglio averlo insieme. Quando è la domenica di segno meno, beh, anche averlo contro potrebbe non essere un problema. Insomma. Gianni Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Volevo indietro un attimo su Cassano. Sì. Visto che si parlava del fatto che è tra i cinque, considerato tra i cinque più... Beh, sa, adesso però Gianni non parte da lì, perché non è che il primo che dice una fregnaccia deve diventare il punto di riferimento. Volevo soltanto dire la mia opinione sul fatto che Cassano dovrebbe anche interrogarsi sul perché, prima di pensare che siano gli allenatori che non lo capiscono, no? No, ma certo. Quando sono diversi gli allenatori, così come nella vita di tutti i giorni, quando sono diverse le persone che non ti capiscono, uno dovrebbe arrivare alla conclusione, certo, di ma che cos'è, che dove sto sbagliando. Era la stessa riflessione, Gianni, mi corregga se sbaglio, che io personalmente ho sempre fatto a proposito di Baggio. Quindi se la facevo magari sbagliando a proposito, ma non ero il solo, a proposito di Baggio, beh, credo che uno se la possa permettere sul conto di Cassano, no? Quindi è inutile pensare sempre che Cassano sia, come dire, perseguitato o perlomeno non è capito, ma bisogna che anche lui si interroghi su dove può migliorare nell'aspetto, diciamo, della comunicazione con gli allenatori, nell'atteggiamento. Insomma, c'è molto da fare. Cassano ha molto da fare su se stesso, secondo me. Sì, e soprattutto anche in fretta, anche velocemente, perché il prossimo 12 di luglio compie 28 anni e quindi, insomma, non, diciamo che il più alle spalle da un punto di vista anagrafico, e quindi ha maggior ragione questo. Poi io mi ero soltanto non risentito, per carità, ma avevo soltanto eccepito subito un attimo all'inizio, abbiamo parlato subito dei primi cinque giocatori del mondo. Io sono abituato che almeno ogni tanto se anche qualcuno la spara grossa gliela lascio dire, poi ovviamente ciascuno è in grado di valutare. Secondo l'ascoltatore di prima, Cassano è tra i primi cinque giocatori del mondo, io farei fatica, credo che non sia difficile metterne insieme altri 499 che gli stiano davanti, se parliamo di mondo contemporaneo. E se parliamo di, ovviamente, di rendimento, se parliamo di qualità, ma qualità che si traducono per sé e per la squadra, compresi per uno che gioca davanti i gol. Se parliamo di potenzialità, allora possiamo anche scendere a 50, mai a 5. Ma se parliamo di rendimento, credo che ce ne sia qualche centinaio prima. Fausto ha chiamato da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Allora, io ho appena finito di sentire un'intervista di Galliani che in pratica zittiva un giornalista e gli diceva che fino al momento del gol di Pandev su punizione il Milan aveva molto in mano il pallino del gioco del derby. Cioè, io l'ho già sentito dire, cioè impossessarsi di una, diciamo, di una definizione coniata da Brera. L'ho già sentito impossessarsi del titolo di squadra più titolata del mondo quando l'UEFA ha assegnato al Real Madrid il titolo di squadra del secolo, sì. Lamentarsi perché le altre squadre possono spendere come il Milan ha fatto per 20 anni, cioè io vorrei capire su che parametri devono muoversi gli altri per non dar fastidio al Milan. È una buona domanda a cui risponderei volentieri, perché come sa lei sul tema mi invita a nozze, se non fosse che il tempo è scaduto, il tempo solo giusto di ricordarvi velocemente il sito online di Radio 24, in cui potete, al www.radio24.it, a cui potete riascoltare questa puntata come ogni altra puntata, come ogni altro programma di Radio 24. Ringraziare Fabio Cantadori in regia, Flavio Suardi e Franco Piantarida in redazione. Buon pomeriggio.